sbagliando tutto. Ma che importa, vero o falso? L'importante è che ora i governi abbiano un capro espiatorio, e sei tu. Sai, ho imparato una cosa negli ultimi anni. E cioè che un politico sa essere più spietato di un criminale senza scrupoli, se deve pararsi. Parli a chi ti ascolta, col tuo scioglilingua, preoccupato che il popolo ti estingua. Invettito, in giacca a doppio petto, vuoi rappresentarci ma senza il dovuto rispetto, nascondendo dietro a quel sorriso il tuo progetto. Leggi su misura per i commensali al tuo banchetto, con l'effetto della pubblicità ingannevole si è fatte leggere irrispettabile onorevole. È il messaggio subliminale di un criminale, ora le dipendenze del Viminale. Siamo alle barzellette, qui le leggi sono fatte da chi dovrebbe essere in manette. Assendeisti per l'Italia che stanno fragando, viceversa tutti uniti se ti stanno indagando. Tutto scorre ma non è corretto, se il tuo gioco è politicamente scorretto. Condizione critica, la crescita nel mio paese estitica, colpa della politica patetica che ti defini con la sua dialettica poetica. Promessa in plastica, la situazione è drastica. Stiamo pagando il prezzo del vostro delirio, il tuo stipendio è 10 volte il mio. Ma dici sul serio, qui c'è qualcuno che merita un futuro. Dopo anni di studi e di lavoro duro, prima di una laurea in economia ne servirebbe una in buon senso come la mia. E via col controsenso, ci chiedi tasse e ci fai licenziare, ma come cazzo le possiamo pagare? E qui Stato che tutela ci viene in aiuto, giochi d'azzardo, non disoccupate il benvenuto. Senza andare al casino, ma seduti sul divano, finalmente c'è qualcuno che ci dà una mano. Un sogno, una speranza, solo un'illusione, seduti online cerchiamo di arrivare alla pensione. La pensione dopo la cassa integrazione la percepiremo il giorno dell'estrema unzione. Condizione critica, la crescita nel mio paese estitica, colpa della politica patetica che ti defini con la sua dialettica poetica. Promessa in plastica, la situazione è drastica. La gente è stufa di questo sistema, non finisce il mondo ma la terra trema. Rimbocchiamoci le maniche, debelliamo la casta, fangula la statistica, ora diciamo basta. Non ci sono tante domande da porci, tanto le risposte sono sempre le stesse, dei soliti porci. Nel paese dei cambiamenti sembra gli stessi nomi che si tramandano da padre in figlio prima delle elezioni. Del politichese che vuole governare il bel paese, non ci fa arrivare a fine mese con la riforma che ci tiene in forma, ci costringe a digiunare, c'è la firma sulla norma. Aumenti dell'IVA, delle tasse, delle solite accise, delle persone esasperate dalla disperazione uccise. Qui di legale ancora per poco c'è soltanto l'ora, zero rispetto per il mio paese che lavora. E pensare che lo Stato m'aveva dato uno scopo, lavorare per pagare il mutuo 30 anni dopo. Ed il peggio è che non si vede un'inversione di tendenza, non voglio nessun merito, parlo per esperienza. Condizione critica, la crescita nel mio paese estitica, colpa della politica patetica che ti defini con la sua dialettica poetica. Promessa in plastica, la situazione è drastica. La gente è stufa di questo sistema, non finisce il mondo ma la terra trema. Rimbocchiamoci le maniche, debelliamo la casta, fangula la statistica, ora diciamo basta.